giunga anch'egli stravolto alla fossa con la nebbia del primo mattino. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. La donna che celò in un sorriso il disagio di darci memoria, ritrovi ogni notte sul viso un insulto del tempo e una scoria. Coltiviamo per tutti un rancore che ha l'odore del sangue rappreso. Ciò che allora chiamammo dolore è soltanto un discorso sospeso. La la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la la. Tornando all'album Non al denaro, non all'amore né al cielo, ecco un'altra canzone particolarmente significativa. Dormono sulla collina è il brano introduttivo di questo concept album, ispirato all'antologia di Spur River di Edgar Lee Masters, nel quale sembra quasi che in quella collina, popolata di morti, si parli il linguaggio di una verità che i vivi non possono esprimere. Ed ecco che i generali si fregiano con cimiteri di croci sul petto e le spoglie dei figli della guerra, partiti per un ideale o per una truffa, sono rimandate a casa nelle bandiere, legate strette perché sembrassero intere. Dormono sulla collina. Dove se n'è andato Elmer che di febbre si lasciò morire? Dove Herman bruciato in miniera? Dove sono Bert e Tom, il primo ucciso in una rissa e l'altro che uscì già morto di galera? E cosa ne sarà di Charlie che cadde mentre lavorava e dal ponte volò, volò sulla strada? Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina. Dove sono Ella e Cat, morte entrambe per errore, una di aborto, l'altra d'amore? E Maggie uccisi in un bordello dalle carezze d'un animale, Edith consumata da uno strano male. E Lizzie che inseguì la vita lontano e dall'Inghilterra fu riportata in questo palmo di terra. Dormono, dormono sulla collina, dormono, dormono sulla collina. Sono i generali che si fregiarono nelle battaglie con cimiteri di croci sul petto. Dove i figli della guerra, partiti per un ideale, per una truffa, per un amore finito male, hanno rimandato a casa le loro spoglie nelle bandiere legate strette perché sembrassero intere. E dormono, dormono suonatore che fu sorpreso dai suoi 90 anni e con la vita avrebbe ancora giocato. Lui che offrì la faccia al vento, la gola al vino e mai un pensiero, non al denaro, non all'amore, né al cielo. Lui sì, sembra di sentirlo cianciare ancora delle porcate, mangiate in strada nelle ore sbagliate. Sembra di sentirlo ancora dire al mercante di liquore: tu che lo vendi, cosa ti compri di migliore? Un altro testo sulla giustizia ingiusta. Jordi è la storia di un giovane che viene condannato a morte per aver rubato dei cervi, proprietà del re. Questa versione è cantata in concerto in duetto con la figlia Luvi. Mentre attraversavo London Bridge, un giorno senza sole, vidi una donna piangere d'amore, piangeva per il suo Jordi. Impiccheranno Jordi con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Sellate il suo cavallo dalla bianca criniera, sellatele il suo pony, cavalcherà fino a Londra stasera ad implorare per Jordi. Jordi non rubò mai neppure per me un frutto, un fiore raro. Rubò 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Salvate le sue labbra, salvate il suo sorriso, non ha 20 anni ancora. Cadrà l'inverno anche sopra il suo viso, potrete impiccarlo allora. Nel cuore degli inglesi, nello scettro del re, Jordi potrà salvare, anche se piangeranno con te, la legge non può cambiare. Così lo impiccheranno con una corda d'oro, è un privilegio raro. Rubo 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Rubo 6 cervi nel parco del re, vendendoli per denaro. Don Raffaè, uno dei pezzi più famosi di Fabrizio, scritto apposta in un dialetto napoletano maccheronico. In certe parti c'è anche qui l'attacco allo Stato. Lo Stato si indigna, si impegna. Sono le parole di Spadolini, quando si precipitò a Palermo in occasione di una delle tante stragi mafiose. Sono costernato, sono indignato e mi impegno. Io mi chiamo Pasquale Gafiero e son brigadiero del carceroimè. Io mi chiamo Gafiero Pasquale, sto appoggio reale dal 53. E al 100° catenaccio, alla sera mi sento una straccia. Per fortuna che al braccio speciale c'è un uomo geniale che parla con me. Tutto il giorno con 4 infamoni, briganti papponi cornuti alla che. Tutte l'ore con sta fedenzia che sputa minaccia, sa piglia con me. Ma alla fine m'assetto papale, mi sbottone, mi leggo il giornale. Mi consiglio con Don Raffaè, mi spiega che penso e bevimmo un caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere 2 anni fa, qua ricetta caccia e cirinella, compagno di cella ci ha dato mamma. prima pagina, 20 notizie, 21 ingiustizie, lo Stato che fa, si costerna, si indigna, si impegna, poi getta la spugna con gran dignità. Mi cervello mi asciugo la fronte, per fortuna c'è chi mi risponde, a quell'uomo certissimo immenso io chiedo consenso, a Don Raffaele, un galantuomo che tiene 6 figli, ha chiesto una casa e ci danno consigli, mentre assessore, che Dio lo perdoni, in 30 rullotti ci alleva i visoni. Poi vi basta una mossa, una voce, casto Cristo ci leva una croce, con rispetto se fatto le tre, volita spremuto, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta cacciccire nella compagno di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanne fa, caricetta di cicciri nella compagno di cella precisa mamma. Ci sta l'inflazione, la svalutazione, la borsa c'è là che c'è là. Io non tengo compendi che chi li stipendi è un ambo se segno a papà. Aggiungetemi a figli innocenza, buon marito non tiene pazienza. Non vi chiedo la grazia per me, vi faccio la barba o la fate da sé. Voi tenete un cappotto cammello, calmarsi processo eravato più bello. Un vestito cessato marrone, così ci è sembrato alla televisione. Queste nozze vi prego eccellenza, mi prestasse per fare presenza. Io ci tengo le scarpe o gillè, gradito campano, ho voluto caffè. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta che ci cirinella, compagna di cella ci ha dato mamma. Ah, che bello caffè, pure in carcere usanna fa, la ricetta di cicirinella, compagna di cella precisa mamma. Le carceri d'oro, ma chi l'ha mai visto chissà, chi se so faticiente, ma chi se fatiente, se tengono l'immunità. Don Raffaele, voi politicamente, io ve lo giuro, sarebbe un santo, ma che dentro voi state a pagare, e fuori chissà, ci stanno a spassare. A proposito, tengono un frate che da 15 anni sta disoccupato, che si è fatto 50 concorsi, 90 domande e 200 ricorsi. Voi che date conforto e lavoro, eminenza vi bacio e vi imploro, chi le dorme con mamma e con me, che crema da rabbia che è chi se caffè. Il prossimo brano è tratto da volume 3, ma in realtà uscì come singolo già nel 1963. Il titolo è Il Testamento, ed è infatti il testamento spirituale di un anarchico. È forse uno dei testi più belli scritti da Fabrizio. Quando la morte mi chiamerà, forse qualcuno protesterà. Dopo aver letto nel testamento quel che gli lascio in eredità, non maleditemi, non serve a niente, tanto all'inferno ci sarò già. Ai protettori delle battone lascio un impiego da ragioniere, perché provetti nel loro mestiere rendano edotta la popolazione ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana, ad ogni fine di settimana sopra la rendita di una puttana. Voglio lasciare a Bianca Maria, che se ne frega della decenza, un attestato di benemerenza che al matrimonio le spiani la via, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto, con tanti auguri per chi c'è caduto di conservarsi felice cornuto. Sorella morte, lasciami il tempo di terminare il mio testamento. Lasciami il tempo di salutare, di riverire, di ringraziare tutti gli artefici del girotondo intorno al letto di un moribondo. Signor Becchino, mi ascolti un poco, il suo lavoro a tutti non piace, non lo consideran tanto un bel gioco coprir di terra chi riposa in pace, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro, ed è per questo che io mi onoro nel consegnarle la vanga d'oro. Per quella candida vecchia contessa che non si muove più dal mio letto, per estirparmi l'insana promessa di riservarle i miei numeri al lotto, non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati, non vedo l'ora di andar fra i dannati per rivelarglieli tutti sbagliati. quando la morte mi chiederà di restituirle la libertà. Forse una lacrima, forse una sola, sulla mia tomba si spenderà. Forse un sorriso, forse uno solo, dal mio ricordo germoglierà. Se dalla carne mia già corrosa, dove il mio cuore ha battuto il tempo, dovesse nascere un giorno una rosa, la do alla donna che mi offre il suo pianto. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. Per ogni palpito del suo cuore le rendo un petalo rosso d'amore. A te che fosti la più contesa, la cortigiana che non si dà a tutti, ed ora all'angolo di quella chiesa offri le immagini ai belli e ai brutti. Lascio le note di questa canzone, canto il dolore della tua illusione, a te che sei per tirare avanti, costretta a vendere Cristo ai santi. Quando la morte mi chiamerà, nessuno al mondo si accorgerà che un uomo è morto senza parlare, senza sapere la verità. Che un uomo è morto senza pregare, fuggendo il peso della pietà. Cari fratelli dell'altra sponda, cantammo in coro giù sulla terra, amammo in cento l'identica donna, partimmo in mille per la stessa guerra. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Questo ricordo non vi consoli, quando si muore soli. Il 68 io l'ho vissuto a contatto con i gruppi di estrema sinistra, partecipando al tentativo di rinnovamento. Non li ho seguiti perché di solito un artista, indipendentemente dall'ideologia, è un coniglio individualista. Mai avrei fatto la lotta armata, ma condividevo quasi tutti quelli che oggi vengono definiti gli eccessi sessantottini, anche perché li avevo quasi promossi attraverso le mie canzoni. Se alle manifestazioni un autonomo sgangherato iniziava a tirare pistolettate, questo non lo condividevo sicuramente. Ma condividevo la rivolta contro un certo modo di gestire la società, che non teneva minimamente conto della società stessa. Volevamo diminuire la distanza tra il potere e la società. Il 68 è stata una rivolta spontanea, e il fatto che non sia riuscita forse è un bene, se è vero che il grosso problema di ogni rivoluzione è che una volta preso il potere, i rivoluzionari cessano di essere tali per diventare amministratori. Queste erano le parole di De André per introdurre Storia di un impiegato, un album che parla di un gesto di ribellione, non di rivoluzione, ribellione di un uomo solo, un gesto di protesta fine a se stesso. Eppure, l'album si apre con una canzone di rivoluzione, la canzone del maggio, liberamente tratta da un canto del maggio francese del 68. Anche se il nostro maggio ha fatto a meno del vostro coraggio, se la paura di guardare vi ha fatto chinare il mento, se il fuoco ha risparmiato le vostre 1100, anche se voi vi credete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se vi siete detti, non sta succedendo niente, le fabbriche riapriranno, arresteranno qualche studente, convinti che fosse un gioco a cui avremmo giocato poco, provate pure a credervi assolti, siete lo stesso coinvolti. Anche se avete chiuso le vostre porte sul nostro muso, la notte che le pantere ci mordevano il sedere, lasciandoci in buona fede massacrare sui marciapiede, anche se ora ve ne fregate, voi quella notte voi c'eravate. E se nei vostri quartieri tutto è rimasto come ieri, senza le barricate, senza feriti, senza granate, se avete preso per buone le verità della televisione, anche se allora vi siete assolti, siete lo stesso coinvolti. E se credete ora che tutto sia come prima, perché avete votato ancora la sicurezza, la disciplina, convinti di allontanare la paura di cambiare, verremo ancora alle vostre porte e grideremo ancora più forte, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti, per quanto voi vi crediate assolti, siete per sempre coinvolti. Con la canzone del maggio si conclude la prima parte di In direzione ostinata e contraria, lo speciale su Fabrizio Dennere. Ricordiamo che all'indirizzo www.scatolanera.ch/variabile potete trovare tutti i testi e la discografia di Dennere. Per informazioni scrivete ad antropofago@scatolanera.ch. A risentirci da Antropofago Escase. La morte non è che sia una cosa importante, direi che è il fatto determinante della vita, come minimo è il suo fatto finale più importante, ecco. Ma non ci sono assolutamente affezionato.